più le risposte che vorrei, che non ho avuto mai, non per mancanza mia. Permettimi di dire che sono fatti tuoi. Io non credo più alle cose che dovrei, e non cerco mai problemi tranne me. Ora sono solo, solo fatti miei. Ho percorso le mie stanze, ho percorso le vorrei, io non le cerco più, le cose che vorrei, non ricordo più, le cose che vorrei, le cose che vorrei, le cose che vorrei, le cose che vorrei.